Sura del Destino, capitolo 97 del Sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 5 ayat ed è scesa dopo la Sura 80, a Abasa. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo, in verità noi lo abbiamo fatto scendere il Sublime Corano nella notte del destino. Cosa ti spiegherà che cos'è la notte del destino? La notte del destino è ricca di grazie più di 1000 mesi. Discendono in essa gli angeli, lo spirito, con il permesso del loro Signore, per dare a ogni cosa il destino assegnato ad essa da Allah. Essa è pace fino allo spuntare dell'alba.